Beh, è vero, con un papiro e te l'intesa. Ma è che papiro con te l'intesa. Sento passare a me. Ma non è che non lo so. Ma l'intesa un papiro e te l'intesa. Ma ah, mi raccomando, se lo togliere a me. Ma è tu, Paolo. Ho papiro con te l'intesa. Dice che te gli raccomando per sotto che robe ho bussombe. Se te la non me ne vengono tutto un arcio. Se tu il signor capo voglio. No, stai provando voglio. Non so via il mora. Se te non è il signor mio arcio. Ma è per me la spotti con la rete. Ma sto... No, non sei per... Allora, che è che l'intesa papiro con te l'intesa. Che chi è ne sono scelgo. Vai, qua quella è che se ne qui per cosa? Non lo so. Ma ci vuole fatta? Mi? Ma meglio vuole fatta? Niente, non mi ha detto che c'è un po' di gente. Niente, io ho detto. Poi ho detto che c'è un po' di gente. No, mi indegno, ma ho visto questa cosa. Ma c'è un po' di gente. Ma c'è un po' di gente. Ma c'è un po' di gente. Ma non è niente di tonic. Ma vedi che ti volta più strano. Ma vedi che tipo gas. Ma vedi che tipo gas. Ma vedi che tipo gas. Ma vedi che tipo gas. Ma vedi che tipo andiamo te, non andiamo per te, perché io sei di una rotta. E sei di una qualche rione qui. La ritrata, insomma. Non mi va.